Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, soprattutto a chi ama i funghi e ai cercatori di funghi, perché oggi questo è l'argomento che andremo a trattare. Ricordo subito numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, devo dire che i funghi sono un po' come il calcio, perché ci sono tanti appassionati di porcini, di finfali, trombette, chiodini e via di seguito, però poi c'è una nazionale. La nazionale è rappresentata quasi sempre dal porcino, perché il porcino è un po', diciamo, la caratteristica comune di molte regioni d'Italia. Quindi chi è che non ama i porcini? Ecco, questo è l'interrogativo che pongo oggi. Ma il porcino è veramente il re dei funghi? Bene, ma non solo, andremo a trattare diversi argomenti, i costi, se ci sono molti porcini quest'anno. Poi, come ho detto prima, sicuramente parleremo di un libro molto particolare, che è L'estetica del fungo, fatto da un filosofo e da un cuoco, dove andremo a scoprire veramente delle chicche. Quindi cominciamo questo giro d'Italia dal mercato generale di Milano, che è un mercato molto importante anche per la frutta, la verdura e appunto anche per i funghi in questo periodo, e da Maurizio Vaglia, che è appunto il fornitore dei funghi del mercato generale, per avere un po' il punto. Qual è la situazione quest'anno, Vaglia? Ci sono molti funghi? Innanzitutto buongiorno. Sì, molti. Ecco, e i prezzi sono molto alti? I prezzi, allora qui c'è un meccanismo, un preambolo che va detto. I funghi venduti di ultimo arrivo, quelli più freschi, hanno una quotazione, no? Ad esempio, quotazione di oggi, al grossista, cioè sì, chi poi rivende, 12-14 euro chilo. Sì. No? Per il fungo più di qualità, il fungo di prima scelta, tutto spore bianche, da insalata oppure mezzano, no? E quel tipo di fungo lì. Il fungo che è invenduto del giorno prima, noi ad esempio non lo trattiamo, c'è chi lo tratta e costa magari 8-9 euro chilo. No? Lei sta sempre parlando di porcini? Porcini. Sì. No? Chiaramente poi ci sono i passaggi, no? Quindi il piccolo distributore lo pagherà 14-15. Quando lo vende al negoziante, magari lo paga il negoziante 20-22, no? Sempre parlando del primo prodotto, il più buono, no? E quindi di conseguenza, quando i prezzi sono più bassi, chiaramente è un fungo camuffato, sembra uguale ma è più bacato, no? Ecco, questo qui è appunto è uno dei punti secondo me principali. Lei ha parlato quando è più bacato. Sì. Ecco, ma i controlli, ci sono i controlli prima di arrivare al rivenditore? Ci sono, però sono talmente tanti gli arrivi, perché sono tanti camion giornalieri che arrivano da varie zone. In questo momento arriva molto dalla Romania, qualcosa è iniziato dalla Macedonia, di nazionale è tutto fermo praticamente, c'è pochissima merce che viene fatta fuori localmente, ad esempio il posto più vicino è Borgotero, no? Chiaramente c'è un fungo che costa diversamente e soddisfa malapena la zona, arriva tutto al più a Parma, no? Non va oltre, no? E chiaramente è un fungo che costa già di partenza in tutt'altro modo. Ecco, no? Sì, diciamo, dia il giudizio veramente netto, sì, insomma, sì. Quali sono i porcini migliori, da dove arrivano? In questo momento, no, questi porcini sicuramente sono i nazionali, no? E bisogna capire una cosa: se il fungo viene venduto per nazionale, il Borgotero è riconosciuto a livello di comunità europea come un fungo DOC, no? E c'è una banda di cartone sopra la cassa che è color verde marroncino, no? Quello contraddistingue il fungo di Borgotero, no? Se non ha quella banda, il fungo assomiglia, ma non è. Ho capito. Ecco, chiaramente il tempo della raccolta che fa, no? Il prodotto locale viene raccolto e venduto subito in giornata, quindi molto più buono, no? In tutta la fascia, dal Nord Africa alla Svezia, Norvegia, girando tutto il pianeta, è interessata ai funghi, ci sono. Magari non viene fatta la raccolta, ma esistono, capito? Bene, grazie bello, Maurizio bello, Vaglia, di queste bello indicazioni. Tra l'altro è arrivato subito un SMS, appena presa una cassetta di porcini, Riccardo. Bene Riccardo, o telefoni oppure ci rimandi un SMS. Quanto li ha pagati questi porcini? Vediamo di fare subito un confronto. Bene, ora andiamo da un bravissimo chef a Firenze. Andiamo al ristorante Palagio dello splendido Four Seasons di Firenze, uno dei più belli alberghi sicuramente d'Europa. E abbiamo con noi appunto Vito Mollica, che è lo chef di questo ristorante, che usa moltissimo i funghi. Allora a lui voglio chiedere, Vito, ci sono funghi di qualità in questo periodo? Davide, innanzitutto buongiorno, saluto anche Maurizio che conosco e so che è un grande intenditore. Ah, bene allora. Quindi funghi di qualità, sì, funghi di qualità ci sono, diciamo che anch'io ieri ho ricevuto tantissimi funghi, anche perché abbiamo non solo ristorante ma anche tanti eventi, e come diceva Maurizio, nazionale poco, ma c'è tanto tanto Romania, e sono arrivati anche di buona qualità, però sono funghi rumeni in questo momento. Ecco, e quanto costano questi funghi, quanto li paghi? Io qui li ho pagati 14 euro al chilo, ma stiamo parlando di una quantità intorno ai 120 kg, ecco. Ah, quindi grossi quantitativi, certo. Nel giro di tre giorni ho consumato 120 kg. Ecco, hai parlato di eventi importanti. Hai parlato di porcini rumeni. C'è molta differenza, diciamo la verità, insomma, c'è molta differenza tra il porcino di Borgotaro, altri porcini che arrivano dalla Sila, altri porcini di zone così, come posso dire, vocate, italiane, e questi rumeni o di altri paesi? Guarda, per la mia esperienza, per quello che posso dire io ho lavorato anche in Est Europa, in Repubblica Ceca, e il problema è il viaggio, quindi non possiamo dire che non sono solo porcini di qualità, anche perché insomma vengono da delle foreste importanti. È evidente che delle piccole aree del Piemonte, piuttosto che della Sila, piuttosto che della Garfagnana, creano un percorso più veloce e soprattutto anche un prodotto, diciamo, adatto all'ambiente più importante, ecco, questo sicuramente. Le quantità purtroppo in Italia e le foreste in Italia non sono tali come quelle dell'Est Europa, quindi se si vuole utilizzare la quantità / qualità un po' inferiore, bisogna prendere prodotti da fuori. Ecco, un'ultima battuta, Vito, ma tu quando eri a Praga, al Four Seasons di Praga, le pagavi molto meno i porcini? Quando prendevo i porcini di Praga li pagavo proprio pochissimo, intorno alle foreste di Praga, parliamo di 4, 3, 5 euro, però molte volte le esigenze chiedono anche di prendere porcini da Rungis, dal mercato di Parigi, perché consegnavano due volte la settimana e sono senza dubbio prodotti migliori da usare crudi, da insalata. Ecco, il prodotto italiano non arrivava a Praga. Bene, quell'insalata che tu servi con la misticanza è un goccio d'aceto balsamico che è veramente straordinaria. Grazie a Vito Mollica del ristorante Palagio Four Seasons di Firenze. Ora do la linea alla viabilità, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo viaggio nel fungo, con particolare attenzione al porcino, ma non solo. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Voglio leggere un sms perché vorrei lanciare appunto diciamo questo interrogativo. Mangiare funghi, anche quelli buoni, sono tossici per il fegato o no? Chiede un radioascoltatore. Allora io lancio questa cosa magari a qualche medico in ascolto o a qualche esperto in ascolto che ci rispondi in maniera scientifica. E allora continuiamo questo viaggio, dicevo, sentiamo un radioascoltatore, Antonio da Reggio Emilia. Buongiorno Antonio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltandoci. Sono di ritorno da Varsavia, dove ho cucinato per Bell Italia 8 giorni e ho lavorato dei funghi porcini che devo dire che erano strepitosi. Ecco, tra l'altro ho notato che all'olfatto lasciavano un po' desiderare, ma con un bel risotto, con pochissimo burro, addirittura niente formaggio, niente parmigiano reggiano, ha dato un risultato strepitoso. Quindi porcini polacchi? Sì, porcini polacchi, tra l'altro raccolti lì. Sono stato 8 giorni e ho avuto modo di sapere anche cosa costavano, l'equivalente di 7,5 euro. Però teniamo presente che lì lo stipendio medio è 500 euro, per cui non dobbiamo farci abbindolare. Bene, grazie Antonio da Reggio Emilia. Bene, ora ho con me due personaggi che sono autori di un libro davvero molto, molto divertente, molto intrigante e anche diciamo molto, molto istruttivo. E ho con me appunto il professor Tony Saccucci e il cuciniere Carmelo Chiaramonte, che hanno dato vita a questo libro che si chiama L'estetica del fungo, edito da Edizione Estemporanee. Perché è interessante questo libro? Perché ci sono aspetti veramente completamente, come posso dire, dimenticati di questo fenomeno attorno ai funghi, e ora lo vedremo proprio con i nostri autori. Innanzitutto buongiorno al professor Saccucci. Buongiorno, buongiorno. Professore di filosofia, ma anche grande amante e cercatore di funghi. Allora, professore, lei ha dato vita un po' all'identikit, di perché si cercano i funghi. Mi vuole rispondere in breve? Sicuramente lei l'ha spiegato con molte pagine del libro. Qui siamo in radio, magari siamo più veloci. Sì, sì, senza dubbio, però facciamo una cosa, professore no. Io al limite professore di funghi, quello molto volentieri. Ah, benissimo, benissimo. Insegna filosofia però. Sono più piccolo di Carmelo. Vabbè, insegna filosofia però. Certamente, però sono più piccolo di Carmelo, allora di Carmelo Chiaramonte che è il coautore. Bene. Quello che ho fatto nel libro è un'operazione che mi sono sentita, nel senso che io da quando ho 5 anni che vado a funghi, e quindi una sera nel bar del mio paese che si chiama Alambrea in dialetto Vallinfreda chiacchieravamo, eravamo 5 o 6 e eravamo tutti fungaioli sostanzialmente, fino a quando uno ha esposto questa passione con una tale veemenza, io sono tornato a casa e ho detto bisogna scrivere qualcosa. Ho iniziato, con 3 mesi ho chiuso il testo, poi l'ho mandato a Carmelo e gli ho detto vedi che ne pensi, e lui dopo 9 mesi mi ha detto che gli era piaciuto, e poi altri mesi sono passati e ha messo le sue ricette, che non sono ricette. La cosa che ci tengo a dire, e dico solo questa, poi aspetto una domanda, è che ho cercato di fare un ritratto filosofico del fungaiolo. Questo non è un libro sui funghi, ma è il primo forse in assoluto sui fungaioli, cioè sul fatto che uno ha questa passione così forte che è irresistibile, diciamo. Me ne accorgo quando con mia moglie discuto, perché esco la mattina presto e vado e rientro tardi, ma il bosco è un'attrazione più forte di qualsiasi altra cosa, almeno per me e per gli altri. Bene, rimanga con noi. Allora continuiamo con Carmelo Chiaramonte. Buongiorno Carmelo. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, io a te voglio chiedere una cosa che credo divertente ma istruttiva. Sì. Tu hai scritto Le due leggi dei porcini. Come si rovinano i funghi e chi può farlo? Mi dai alcuni spunti su questo? Invece che non lo leggo io, vorrei che tu me lo dicessi tu. Beh, la prima legge che ho scritto in assoluto, ma che è una verità che ho acquisito col tempo, è quella che il porcino si divide in due parti, la cappella e il gambo. Hanno due valori aromatici completamente diversi, nonché due consistenze molto differenti. La cappella ha un profumo molto intenso, molto forte, quindi andrebbe rispettata e lavorata in un certo modo. Il gambo può essere violato con cotture forti, con le fritture, eccetera. E la seconda che ho scritto è in relazione al fatto che noi abbiamo ancora delle superstizioni, non so, chi cucina ancora i porcini per provare se si ossida l'argento con una moneta, piuttosto qualcuno li dimentica in frigorifero in un sacchetto di plastica per 3 giorni, qualcun altro osa accostare formaggi di plastica o salumi industriali quando fa i suoi timballetti, eccetera. Ho voluto mettere in chiaro alcune, poi anche dei riferimenti. Bene, poi l'approfondiremo, perché ti leggerò alcune cose e voglio una risposta. Sentiamo Attilio da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Attilio. Buongiorno. Mi dica. La trasmissione è interessantissima e devo dare atto all'interlocutore che è dall'altro lato del cavo del telefono, che ce ne stanno parecchie di queste situazioni. Io volevo rispondere proprio in base al fatto che ci sono dei funghi che purtroppo assomigliano molto a, per esempio, all'armillace, al classico chiodino, ma che sono commestibili, ma in realtà mangiate in più di 300-400 grammi incominciano a diventare tossici, non letali ma molto tossici. Ho capito, bene, grazie a Attilio da Napoli. Allora, ma ho tantissimi sms, ognuno rivendica la sua zona come la migliore per i porcini, chi Sassello, chi il Savonese, chi a Bardinetto, insomma potrei continuare perché veramente ce ne sono tantissimi che si pronunciano come, diciamo, portatori di questi valori del territorio. Ma torniamo a Saccucci. Saccucci, allora, un identikit brevissimo, cioè diciamo, chi è il cercatore di funghi? Ci diamo del tu, però, così sto sì, certo, meglio bene. Anch'io. Bene, bene. Chi è il cercatore di funghi? Io sostengo una tesi un po' forte, forse estrema, ovviamente guardo me e le persone che ho vicino soprattutto. Il cercatore di funghi è uno che cerca nella vita in genere, la tesi che sostengo è questa sostanzialmente. Tutti noi siamo portati a ricercare nella vita, anche se non lo sappiamo. Cercatore dei funghi in genere sublima questa sua ricerca nella vita nella ricerca del fungo, per cui c'è una traslazione, una ricerca magari inconscia e che però spiega il motivo per cui è così forte. Posso dire una cosa rispetto a questo fatto che ogni zona rivendica il miglior porcino certo, del mondo? Certo. Io sto girando un po' l'Italia per promuovere il libro e torno da Borgotaro, la settimana scorsa l'abbiamo presentato a Borgotaro, terra magnifica tra l'altro, e anche a Borgotaro o ad Albareto, che sono posti che stanno a 9 chilometri, si litigano il miglior certo, fungo del mondo. Certo, all'Ariano stessa cosa, ma io comunque posso dire che i migliori funghi del mondo sono quelli della mia zona. Beh, chiaro, tutti così. Sentiamo Anna Maria da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, io ero entusiasmata da questo signore che sta spiegando, perché anch'io sono una cercatrice di funghi ed è veramente così. È veramente così. Cioè lei ricerca sempre nella vita tutto? Sì, sì, è così. E comunque la passione è una cosa che solo chi va a funghi può capire. Senta, ma lei dove va a cercare i funghi? Io vado sopra Biella. Quindi, ma lei ogni anno cambia o ha sempre la stessa? No, c'ho sempre i miei posti. Difatti vado proprio sotto le fogliette. C'è gente che, per esempio, domenica, gente che non ne aveva niente, io non ne ho trovati tantissimi, però sui 15 li ho trovati belli. Bene, sentiamo Corrado da Verona. Buongiorno Corrado. Buongiorno a tutti i cercatori di funghi e a tutti gli appassionati di micologia. Mi dica. Io sono un cercatore di funghi, parlavate del porcino, del fungo migliore in assoluto. Sì, posso essere d'accordo, ma guardi, io nel cesto adesso ho delle russole cianosante, delle russole auree, ho dei porcini, ho qualche chiodino, ho dei funghi meravigliosi che cotti assieme danno un sapore a questo misto incredibile. Noi le mangiamo con la polenta e la luganega o lucanica, non so come la chiamate, è una cosa straordinaria. Bene, grazie Corrado. Io torno a Carmelo Chiaramonte e gli voglio chiedere, tu hai scritto 3-4 modi per rovinare i funghi, lasciandoli in frigorifero per 3 giorni, lavandoli con l'acqua, cuocendoli col pomodoro, sbollettandoli prima di cuocerli in qualsiasi modo, lasciandoli a bagno con acqua e sale per disinfettarli. Bene, questi sono gli errori che vengono commessi di solito, Carmelo? Beh, in generale io mi sono rivolto anche a un pubblico domestico che spesso non ha dimestichezza con i funghi. È chiaro che il fungo non rientra in una gastronomia mediterranea in cui si accosta il pomodoro, anche perché il mondo dei funghi è uno dei prodotti che rientra nella magia, nell'alchimia, perché i funghi sappiamo benissimo che non sono di nessun valore nutritivo, ma solo aromatico e diciamo belli anche per le loro consistenze. Quindi c'è un modo, diciamo, come dire, quasi religioso di accostarsi al conciamento. È chiaro che su tutti governa il porcino, perché è il fungo che ha una più grande intensità aromatica, e se qualcuno rivendica ognuno nei propri territori come dire un egocentrismo, un geocentrismo dell'aroma del porcino, è perché proprio sono tutti di complessità aromatiche. Io ho sentito porcini che hanno un che di agliaceo, o altri porcini non so, dell'Appennino molisano, che hanno invece un bel profumo di foglia secca, piuttosto che quelli della Val di Taro, che mi ricordano spesso anche toni di tabacco fermentato. Sono tutti molto diversi ed è una bellezza di cui siamo fieri. Il gastronauta. Funghi, sempre funghi, fortissimamente funghi. Ebbene, allora continuiamo il nostro viaggio. Numero verde 800 24 00 24. Siamo pieni di sms, poi ne leggerò alcuni, ma sentiamo Stefano dalla provincia di Bologna. Buongiorno Stefano. Buongiorno Paolini. Mi dica. Allora, io provo per questo. A me è capitato di andare, per esempio, a Borgotaro a mangiare. Una volta mi ha portato un mio conoscente, ti faccio mangiare. Bene, me li hanno presentati i funghi fritti. Sì. Impanati e fritti come se fosse una cotoletta, un pane magari un po' più fino, leggero, però sapeva di fritto con il profumo di fungo. E per me è un po' un modo per massaggiare un po' i funghi, tra virgolette. Cioè... Bene, lei dice che insomma fritti in questa maniera non si gode il fungo, mi sembra questo il succo della sua... Esatto, no, ma... Anche spesso magari io ho amici che vanno a funghi, però poi tornano a casa e non so, magari ce li danno con la panna, fanno il risotto, ci mettono la panna. Mamma mia la panna, mamma mia la panna. Allora è il modo per massimo. Allora io dico, prendete la cappella cotta, io quando ce le ho buone metto un pelo di filo d'olio in padella coperte, così sì. Bene, guardi, Stefano, sentiamo, abbiamo con noi Carmelo Chiaramonte, che è un grande cuciniere. Sentiamo lui cosa ne pensa dei funghi fritti. Beh, io sono d'accordo con l'ascoltatore, perché in realtà c'è un costume italiano, soprattutto dei ristoranti e delle trattorie, che trattano i funghi, principalmente i porcini, come fossero ortaggi, quindi con cotture violente, utilizzando spesso anche il pomodoro o accostamenti forti come certe carni o certe erbe aromatiche che sovrastano completamente il porcino. E non ho trovato nei ristoranti un grande rispetto di delicatezza verso i funghi. Devo dire che in generale si tranne nei ristoranti, diciamo, che hanno una traccia popolare, magari contadina, o che comunque sono legati alla cucina d'autore, in cui c'è una certa riflessione della gastronomia. E quindi sono d'accordo con questo sistema. E i porcini vanno trattati con un certo rispetto. Per esempio, se vogliamo fare una zuppa, possiamo farla con i gamberi, cuocendoli, soffriggendoli e stemperandoli in maniera da inserirli in un brodo sia di pesce che di carne, a secondo come si vuole fare la zuppa. Ma io suggerisco sempre di tagliare a crudo, di condire con un po' di olio e sale, per mettere questo finale nella zuppa a freddo, senza cuocere la cappella, proprio perché si perderebbe quella traccia aromatica che poi è tutta la poetica del porcino, per esempio. Bene, grazie Carmelo, rimane ancora con noi. Sentiamo Renzo da Genova, un altro radioascoltatore. Buongiorno Renzo. Buongiorno. Mi dica. Io telefono dalla Liguria. Sì. State dimenticando, mi pare che abbiate dimenticato. No, non l'abbiamo dimenticato l'ovolo. No, no. Se è l'ovolo di cui vuol parlare, perché ne parleremo. È il fungo più prelibato del mondo. Certo, ma è molto raro, ecco. È pericoloso perché si può confondere con la mammita faloide, però l'ovulo è la cosa migliore di questo mondo. Guardi Renzo, c'è una squadra che ha già mandato SMS sull'ovulo, ne avremmo parlato, non si può parlare di tutto in pochi minuti, però voglio sentire da Tony Saccucci cosa ne pensa dell'ovulo. Ma io, l'ovulo è un bellissimo fungo e buonissimo. Quello che io però sostengo nel libro è che il porcino, tornando al tema della trasmissione, è veramente il re del bosco. Il porcino ha un carattere archetipico, c'è poco da fare. Se si dice fungo, la prima cosa che viene in mente è il porcino, quello che io nella tassonomia scherzosa che in qualche modo traccio nelle prime pagine del libro è chiamato il classico, cioè quello rotondo nel gambo, una mezza luna, una mezza sfera, diciamo così, come cappello, ed è l'essenza della linea, insomma un po' il cubismo di Picasso, è questo tipo di ricerca essenziale. Quindi l'ovulo sì è molto bello, ma il porcino a livello, io direi quasi simbolico, archetipico, è quello che attira di più. Poi l'ovulo è buonissimo, per carità, ma i porcini cucinati da Carmelo io direi che non hanno paura di nessun ovulo però. Bene, sentiamo Paolo da Udine, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Buongiorno, piacere. Dica. Io sono un appassionato di cucina e volevo segnalare, accanto ai classici funghi fregiati, porcini, gialletti, finferli, tartufi, due particolarità. La mazza di tamburo, detta col nome volgare, impanata e fritta, che è una delle prelibatezze secondo me tra i funghi, e accanto a questo un'altra particolarità, che è il tartufo di Muzzana, che è un piccolo paese in provincia di Udine, che forse facendo dei torti mi sento di dire poco ha da invidiare rispetto al tartufo di... Guardi Paolo, sul tartufo le prossime settimane sicuramente ne parleremo e come, quindi grazie del suo intervento. Bene, abbiamo con noi ora la responsabile marketing di un'azienda artigianale che lavora veramente tantissimi funghi e devo dire di grande livello, Teresa Pecora, appunto della Demetra. Buongiorno signora Pecora. Buongiorno e buongiorno a tutti. Volevo chiederle, voi che lavorate tantissimi funghi, com'è quest'anno l'annata? Cioè arrivano da tutto il mondo, ci sono funghi così veramente migliori degli altri? Ecco, gli italiani, l'abbiamo già chiesto a un venditore di Milano, ma lo voglio chiedere anche lei, voi ne lavorate veramente grandi quantitativi. Il fungo italiano, il porcino italiano rispetto a quelli che arrivano dall'estero? Noi, come diceva lei, ne lavoriamo veramente tanti, pensi che circa 1000 tonnellate di porcini all'anno lavoriamo, che poi confezioniamo sott'olio in scatole trifolati, e sono veramente tanti e la provenienza è sicuramente mondiale. nel senso, viste le grosse quantità, ovviamente ci dobbiamo rifornire su tutto il mercato mondiale. Le migliori qualità sono senz'altro quelle europee, quelle italiane, del nord Europa e dell'est Europa, come hanno detto le persone che mi hanno preceduto prima. Queste sicuramente sono le zone più pregiate e da quali cerchiamo di rifornirci. Ecco. Senta, ma quest'anno sembra che in Italia ce ne sia un grande quantitativo. Anche all'estero, anche nei paesi da dove voi importate questi funghi, c'è un quantitativo superiore agli anni passati? No, purtroppo noi non questa cosa non la riscontriamo, non la stiamo riscontrando, soprattutto perché cerchiamo prodotti di alta qualità, quindi essendo un fungo spontaneo cerchiamo un prodotto sano, che non ci sia presenza di vermi, che sia pulito, e quindi di questo tipo di prodotto c'è una certa scarsità quest'anno e di conseguenza i prezzi tendono ad aumentare, visto la scarsità, ecco. Bene, grazie a Teresa Pecora della Demetra, presto, sentiamo Gigi da Trento, un radioascoltatore, buongiorno Gigi. Buongiorno a voi. Allora, sul fatto dell'orrore del veder friggere un fungo, vorrei puntualizzare sul fatto che c'è un fungo da noi, e c'è più o meno dappertutto, che si chiama mazza di tamburo, Macrolepiota procera, che di cui si usa solo il cappello impanato come fosse una cotoletta alla milanese. Bene, quindi chiediamo a Carmelo consiglio su questo. Carmelo, hai sentito? La mazza di tamburo è un fungo che si presta moltissimo alle fritture ed è delizioso, ha un sapore molto molto interessante. Per quanto riguarda l'ovulo, è uno dei funghi sicuramente più pregiati, più delicati, che io quasi mai cucino, perché quelle poche volte che riesco a trovarlo e portarlo in cucina non lo trasformo neanche, lo taglio appena. Un altro malcostume che volevo denunciare è quello di mettere il succo di limone nelle insalate crude di funghi, che devo dire che è una grande penalizzazione, è quasi un'eresia aggiungerlo. Ecco, io volevo chiederti anche un altro elemento che tu dai nel tuo libro, il discorso di lavandoli con l'acqua, tu lo sconsigli? Preferisco, fino a quando posso, se il fungo non è molto sporco, di spennellare la sabbia e di usare un panno umido per togliere quel po' di terra che c'è, perché se il fungo si inzuppa di acqua perde comunque il suo aroma. Bene, sentiamo Damiano da Brescia, un altro radioascoltatore, oggi sono tanti, ecco Damiano, pronto? Sì, buongiorno, volevo dare la testimonianza dei funghi porcini, che quest'anno ce ne sono tantissimi. Io sono andato a raccoglierli in Val di Fassa, eravamo in 4, 46 kg di porcini abbiamo portato a casa. Mazza, dove siete andati? Dove? In Val di Fassa. Ah, in Val di Fassa. Bene, li avete già mangiati o li avete venduti? No, li abbiamo dati ai parenti, noi siamo privati, cioè ricercatori così proprio. Quindi quest'anno è un'annata molto grassa, insomma. Va. Allora, l'anno scorso, io mi ricordo l'anno scorso niente, proprio zero assoluto. Quest'anno invece, come si dice da noi, hanno buttato fuori misura, diciamo. Bene, grazie Damiano da Brescia. Un'ultima battuta per Saccucci. Volevo chiederle, hai sentito che quest'anno è un'annata grassa? Quando un cercatore trova tanti funghi è contento? Ah sì, certamente. E quando non li trova è contento lo stesso, perché sa che prima o poi li troverà. Per cui, bene. L'ultima cosa che volevo dire è il nome della collana che ci ospita, che ospita il libro, che è, credo sia proprio il caso di dirlo, si chiama La terra e la passione. Questo libro ci sta benissimo in questa. Bene, parte. Immagino proprio di sì. Grazie Saccucci e grazie Carmelo Chiaramonte. Sentiamo Elena da Rimini. Buongiorno Elena. Buongiorno. Mi dica. Che piacere essere in trasmissione con lei finalmente. Mi dica. Allora, l'ascolto tutte le mattine. Io sono una fungaiola un po' inconsueta, perché vado a funghi molto tardi, quindi una cosa di sicuro anomala, però trovando funghi che molte persone spesso lasciano, tutti cercano i porcini, qualche funghetto un pochino meno apprezzato, la trombetta dei morti. Il nome tecnico dovrebbe essere il Craterellus cornucopioides, e lo utilizziamo per una ricetta tipicamente romagnola, inserendolo all'interno del famoso compenso dei tortelli. Bene, quando si parla di Romagna ovviamente io ho delle emozioni soprattutto quando si parla di cibi romagnoli, perché mi ricordo la mia infanzia e la mia adolescenza. Bene. gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, cari radioascoltatori, a parlare di funghi. Come avevo promesso nella prima parte, veramente il fungo è un po' come le squadre di calcio, come tante altre passioni di noi italiani. Ognuno ha il suo fungo che ritiene il migliore, e io rispetto anche appunto molti che mi hanno scritto sul cardoncello. È vero, il cardoncello calabrese è un altro fungo straordinario. Io avevo lanciato questa idea di questo tema, è il porcino il re dei funghi, perché mi aspettavo che qualcuno dicesse no, è il cardoncello, oppure no, è un'altra cosa. Poi lo vedremo, perché secondo me ho uno chef, un noto ristoratore in linea che dirà quello che penso anch'io sui funghi. Comunque poi vedremo. Sentiamo Emanuele da Bergamo. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, io sono un cercatore di funghi, un appassionato. A me il porcino, allora lo raccolgo, ma a me il porcino non piace più di tanto. Ecco, lo sapevo, immagino. Benissimo. A me piace tantissimo la morchella, quella che viene chiamata in gergo spugnola, anche perché è l'unico fungo che ha tossine termolabili, quindi è l'unico fungo che non contiene tossine dopo cotto. È proprio. Beh, lei che vedo è un esperto, ho un SMS che mi dice: è vero che le spugnole devono essere bollite per 2 o 3 ore? No, 2 o 3 ore no, non serve così tanto tempo, è abbastanza anche la mezz'oretta, anche perché poi vanno fatte bollire, spezzettate e poi rifinite in cottura con un pizzico di burro, un pochino di cipolla e un pizzico di sale. Bene, così abbiamo risposto a Giorgio Verone, e abbiamo appunto uno che dice no, il porcino non è il re dei funghi. Ma io ora voglio sentire l'amico Paolo Teverini, che è un noto chef del ristorante appunto omonimo a Bagno di Romagna. Voglio sentire, ma Paolo, il prugnolo forse per te è migliore del porcino oppure no? Buongiorno, ciao Davide. Ciao. Sicuramente il prugnolo è il re dei funghi. Ecco. E ne parlo sotto l'aspetto gastronomico, ovviamente. Certo. Per me è il fungo che mi fa impazzire semplicemente lavorarlo, perché ha questa aroma, questo profumo inebriante. Quando semplicemente lo taglio, lo pulisco e tolgo quel po' di terra che può essere rimasta attaccata, sprigiona questi profumi incredibili. Un prugnolo veramente per me è il re dei funghi in assoluto. Qual è il periodo? Non lo togliere a tutti gli altri. Qual è il periodo del prugnolo esattamente? È la primavera, dipende, è un fungo molto soggetto all'andamento stagionale, però solitamente aprile, fine, metà aprile, fine aprile e per tutto maggio grosso modo si trova. Se la primavera arriva un po' anticipata, anche lui anticipa di una settimana, 15 giorni. Però è la primavera il suo periodo. Ecco, rimani con noi perché abbiamo sentito le spugnole prima, il prugnolo ora, e allora io passo la parola a Roberto Della Pina, che è presidente del consorzio del fungo di Borgo Taro, e lui sicuramente non la pensa così. Vero Roberto? Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, certamente siamo qui nella patria del fungo porcino IGP, e secondo me anche proprio i 4 tipi di porcini, che cosa sono quelli che vanno meglio, ecco. Sentivo parlare prima del prugnolo, certo, il prugnolo è un fungo molto profumato che nasce anche qui da noi in primavera, però viene consumato solo fresco, mentre il porcino abbiamo la possibilità anche di consumarlo sott'olio e anche essiccato, ecco. Bene, rimanga con noi, sentiamo certo. Rossano da Firenze, un altro radioascoltatore. Buongiorno Rossano. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno a tutti, anche i vostri ospiti. No, io siccome stavo prima sentendo la trasmissione sui funghi e tutto, dicevo che anche gli ovoli sono un fungo un po' particolare per delle insalatine, per queste cose qui. Certo, certo. Come dicevano del prugnolo, che è un fungo buonissimo. Ora noi abbiamo dei ristoranti tradizionali toscani dove il fungo fa da padrone, diciamo, anche in questo periodo. Bene, grazie Rossano da Firenze, dalla provincia di Firenze. Della Pina, voglio tornare sull'ovulo. L'ovulo veramente sono abbastanza rari. Sì, sono abbastanza rari. Sì. Ecco, si trovano in questo periodo? Ci sono ovuli oppure? Sì, in questo periodo si trovano. Si trovano nei boschi piuttosto puliti ed è proprio l'ideale per mangiarlo in insalata, ecco, fettato fine fine. Sentiamo Leo da Bari, dalla provincia di Bari. Buongiorno Leo. Paolini, niente, sì. Io siccome ho sentito prima che un signore si lamentava che il cardoncello pugliese o calabrese non è un'altra cosa, sì, è vero, c'è una pianta che noi chiamiamo in Puglia il cardoncello, però il cardoncello esiste veramente, anche se non si trova, diciamo, facilmente adesso, sarà coltivato, però è una cosa molto speciale. Bene, grazie Leo. Sentiamo Mauro dalla provincia di Roma. Buongiorno Mauro. buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, io fabbrico pasta, il pastaio è la mia vita. Allora, i funghi porcini che sono le rete del bosco, io a volte mi diverto a essiccarli, li riduco in farina, poi li metto in percentuale con la farina e ci faccio le fettuccine da poter fare dopo in bianco con i funghi porcini. Bene Mauro, grazie. E poi, prego, e poi nel mese di novembre qui da noi escono nel bosco, noi li chiamiamo le trombette da morto, sì, certo, che sono dei funghetti neri a forma di tromba, che anche quelli li essicchiamo e dopo quando ti fai per dire le fettuccine in bianco con i funghi porcini, a modo parmigiano, a modo li rispolveri sopra per arricchire il sapore, anche se il fungo porcino cotto così in padella con aglio, olio, certo, rosmarino e una fogliolina di menta è la miglior secondo morte. Me non si dovrebbe toccare da così. Bene, grazie Mauro, non abbiamo parlato di finferio per esempio, di tanti altri funghi. Voglio tornare un secondo all'amico Paolo Teverini. Paolo, secondo te qual è il miglior modo di cucinare o di presentare il porcino? Ma personalmente il porcino fritto è quello che adoro soprattutto, però il porcino ha questa grande possibilità di essere un fungo molto duttile, nel senso che si può friggere, si può cuocere alla griglia, si può fare. Ecco, fritto con l'olio d'oliva extravergine, in quale maniera? Sì, allora io ho il mio modo di cucinare il porcino, un modo che non ho scoperto io, ma che mi ha insegnato mia mamma, che da noi qui si fa nell'Alto Savio, ed è passarlo nella farina di grano turco, nella farina da polenta, semplicemente senza uovo, senza niente, solo il porcino. Ovviamente si scelgono le teste più mature, si taglia a fette, si passa nella farina e si mette in olio bello caldo a circa 150 gradi. In questo modo la farina non toglie nessun sapore, come potrebbe essere una pastella, certo, a base di uovo, e lascia il fungo croccante, perché la farina rimane croccante sotto i denti ed è piacevolissima. Beh, questo secondo me è il modo migliore. Ma il porcino, come dicevo, è duttile, perciò va anche. Può cucinare in tantissimi, tantissimi. Grazie, anni. Grazie a Paolo Teverini. Un'ultima battuta velocissima della Pina. Qual è il piatto tradizionale con il porcino di Borgotaro? Beh, il piatto tradizionale è quello insalato con le teste più giovani, quelle colorate sotto bianco, e poi, come ha detto quello che mi ha preceduto, con la farina di mais e poi fritti, sono quello dove proprio sprigiona il sapore migliore. Bene, una grande annata per Borgotaro, vero quest'anno? Sì, adesso è una grande annata, stanno nascendo, anche il tempo ci viene dietro. Bene, grazie a Roberto Della Pina, presidente del Consorzio del Fungo di Borgotaro. Abbiamo chiuso questo bellissimo viaggio attraverso il tartufo. Allora io vi do appuntamento domani per il riposo del guerriero, e ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con la pillola del gastronauta. Ringrazio in regia Peter Bescapè, in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca. Buon weekend a tutti da Davide Paolini. Ciao, sono Alessandro Del Piero. Tutti i giorni bevo Uliveto, la mia acqua della salute. Vi ha presentato il gastronauta.